Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergante e il sergattatore, ben trovati. Parliamo subito di investimenti sostenibili e responsabili. Esiste una finanza che non è una finanza speculativa, che non è una finanza cinica e spietata, che investe sulla sostenibilità e sulla responsabilità. C'è un istituto, Eurosif, che si occupa ogni anno di valutarne la consistenza. Quest'anno, il 10 ottobre, mercoledì, sarà presentata l'edizione 2012 alla Camera di Commercio di Milano nell'ambito, giusto appunto, del Forum per la finanza sostenibile. Scusate il disturbo, è il titolo di un'asta benefica di opere d'arte. Chi ha indetto quest'asta è la cooperativa sociale Il Volo Onlus. Abbiamo con noi il cofondatore di questa cooperativa, Paolo Colonna. Buongiorno a Paolo Colonna. Buongiorno a tutti. Asta benefica di opere d'arte, ne parliamo fra pochissimo, dove e quando, ma innanzitutto parliamo di una cooperativa che si occupa di disturbi psichiatrici di personalità. Sono dei giovani che non stanno bene, che hanno bisogno di cure speciali. Esatto, noi siamo l'unica comunità in Italia che cura i giovani con disturbi psichiatrici di personalità di tipo borderline. Le nostre cure sono fondamentalmente di tipo psicologico, personali, di gruppo e di famiglia, e quasi mai farmacologico, se non per assorbire le punte di disagio. E in più abbiamo una serie di attività terapeutiche per far riportare i nostri ragazzi nel mondo normale e civile, che dopo 18 mesi in genere raggiungono. Diceva lei borderline, spieghiamo il termine per chi non è esperto. Borderline vuol dire che sono un po' sulla lama del rasoio. Se opportunamente aiutati, come cerchiamo di fare noi, possono ritornare ad una vita normale. Se invece sono abbandonati a loro stessi, come purtroppo accade sovente, si perderanno o attraverso temi psichiatrici, tipo la psicosi, o attraverso proprio abbandono, attraverso droghe, alcol, eccetera, che porta alla loro cancellazione. Il 10 ottobre, mercoledì alle 19, al Palazzo Isimbaldi, che ricordiamo è la sede della provincia di Milano, raccogliete fondi vendendo opere d'arte. Sì, 50 artisti ci hanno regalato un'opera d'arte ciascuna, in più i nostri ragazzi che nelle loro attività terapeutiche dipingono e si occupano di un atelier d'arte hanno messo 10 opere d'arte in vendita. È un'asta di opere d'arte di giovani pittori già validi. I fondi al 100% verranno dedicati a una nostra nuova attività. Stiamo aprendo un ristorante a Casatenovo e in questo ristorante lavoreranno sia in cucina che all'esterno i nostri ragazzi. È un difficile incontro con la realtà che gli aiuterà moltissimo per avvicinarsi pian piano alla vita civile. Abbiamo bisogno di 350.000 euro. Riteniamo che con questa asta di opere d'arte 30-50.000 euro riusciremo a raccogliere. Vabbè, speriamo anche di più, occorre essere ottimisti. Casatenovo, ricordiamo dov'è per chi ci ascolta. In Brianza. Vicino a Carate, Merate, questi comuni della Brianza. Bene, e come si chiama il ristorante? Avete già scelto il nome? Il Volo. Ovviamente. È il ristorante del Volo, perché Bene. Noi ci chiamiamo Cooperativa Sociale Il Volo e aiutiamo i nostri ragazzi a spiccare il volo. Bene, grazie. Lei è fondatore di questa cooperativa Il Volo Onlus. L'appuntamento alle 19 di mercoledì alla provincia di Milano con l'asta Scusate il disturbo. Buon lavoro. Grazie a lei. Chiudiamo con un altro invito alla sensibilità e all'attenzione con un altro dramma, che è quello della sclerosi laterale amiotrofica. Oggi in 100 piazze italiane si raccolgono fondi per un progetto di mappatura genetica per le famiglie di pazienti di SLA. Pino Barbera d'Asti a 10 euro è il pretesto per contribuire a questa associazione. Fino al 14 ottobre, comunque, per chi non ama bere il vino, si può anche utilizzare il numero fisso al cellulare 45505 per contribuire. Tutto per Ferribot, grazie a Danita Panizza in redazione, a Valeria Bernardi in regia. A risentirci. Thank you.